Mr. Bulstrode tacque un po' prima di rispondere. Mi addolorate moltissimo parlando in questo modo, Vinci. Non pretendo che comprendiate i motivi delle mie azioni. Non è facile aprire un varco ai principi nel labirinto del mondo, e ancor meno far vedere chiaramente quel sentiero agli incuranti e agli schernitori. Dovete ricordare, vi prego, che io mi sforzo di essere tollerante nei vostri confronti in quanto siete fratello di mia moglie. E che vi si addice poco accusarmi di negarvi un aiuto materiale tendente a rafforzare la posizione mondana della vostra famiglia. Devo ricordarvi che non sono state la vostra prudenza né il vostro buonsenso a consentirvi di conservare il vostro posto nel commercio. Molto probabilmente no, ma finora col mio commercio voy non ci avete perso, disse Mr. Vincy, punto assai sul vivo. Un risultato di rado ritardato da quando si era ripromesso in precedenza. E quando voi avete sposato Harriet, non capisco perché potevate aspettarvi che le nostre famiglie non dovessero aiutarsi a vicenda. Se avete cambiato intenzione e volete che la mia famiglia si abbassi, è meglio che lo diciate. Io non sono mai cambiato. Ora sono un normale uomo di chiesa, proprio come lo era prima che spuntassero tante dottrine. Prendo il mondo come lo trovo, nel commercio come in qualsiasi altra cosa. Mi accontento di non essere peggiore del mio prossimo, ma se voi volete che ci abbassiamo, ditelo. Saprò meglio cosa fare allora. Parlate sconsideratamente. Rovinerete la vostra posizione se non avrete questa lettera su vostro figlio? Beh, comunque sia, considero molto scortese da parte vostra rifiutarmela. Comportamenti simili possono essere foderati di religiosità, ma fuori hanno un aspetto repellente ed egoistico. Tanto varrebbe che calunniaste Fred. È più o meno la stessa cosa quando vi rifiutate di dire che non avete messo in circolazione una calunnia. È una cosa di questo genere, questo spirito tirannico che vuole fare il vescovo e il banchiere dovunque. È una cosa di questo genere che rende ripugnante il nome di un uomo. Vinci, se insistete a litigare con me, procurerete un estremo dolore sia a Harriet che a me stesso, disse Mr. Bulstrode, un po' più violento e pallido del consueto. Non voglio litigare, è mio interesse e forse anche vostro che restiamo amici. Non vi porto rancore, non penso che siate peggiori di altri. Uno che quasi si lascia morire di fame e arriva al punto di dire tutte le preghiere di famiglia e così via, come fate voi, crede nella sua religione, quale che essa sia. Potreste far circolare il vostro capitale con la stessa rapidità, imprecando e bestemmiando. Un sacco di gente lo fa. A voi piace fare il padrone, non si può negarlo. Dovete essere il primo in cielo, altrimenti non sarete contento. Ma siete il marito di mia sorella e noi dovremo stare uniti. E se conosco bene Harriet, penserà che sia colpa vostra se litighiamo, perché voi fate il difficile per un niente in questo modo e vi rifiutate di fare un favore a Fred. E non voglio dire che la digerirò bene. La considero una scortesia. Mister Vincey si alzò, cominciò ad abbottonarsi il cappotto e guardò con fermezza il cognato, lasciando sottintendere la richiesta di una risposta decisiva. Non era questa la prima volta che Mister Bulstrode aveva cominciato ammonendo Mister Vincey e aveva finito col vedere un riflesso assai insoddisfacente di sé nello specchio rozzo e poco adulatorio che la mente di quell'industriale presentava alle luci e alle ombre più sottili dei suoi simili. E forse la sua esperienza avrebbe dovuto fargli prevedere il modo in cui la scena sarebbe terminata. Ma una fonte ben alimentata sarà generosa delle proprie acque anche se piove, quando queste sono più che inutili, e una bella fonte di ammonizioni è portata ad essere ugualmente irrefrenabile. Non era nell'indole di Mr. Bulstrode accondiscendere immediatamente di fronte a insinuazioni spiacevoli. Prima di cambiare corso aveva sempre bisogno di elaborare i propri motivi e metterli in armonia con la sua norma di condotta abituale. Infine disse: Ci rifletterò un po', Vinci. Parlerò della faccenda con Harriet. Probabilmente vi manderò una lettera. Molto bene. Quanto prima, vi prego. Spero che sia tutto sistemato prima che vi veda domani. Capitolo 14. Il consulto che Mr. Bulstrode ebbe con Harriet a quanto pare aveva dato il risultato desiderato da Mr. Vincey perché il mattino seguente di buon'ora Giunse una lettera che Fred poté recare a Mr. Featherstone in quanto rappresentava la testimonianza richiesta. Il vecchio era letto a causa del freddo e siccome Mary Gert era introvabile nel salotto, Fred salì di sopra subito e presentò la lettera allo zio, il quale, appoggiato confortevolmente su dei cuscini, non fu meno in grado del solito di godere della propria consapevole saggezza nel diffidare dell'umanità e nel frustrarla. Inforcò gli occhiali per leggere la lettera, increspando le labbra e tirandole giù agli angoli. Nelle presenti circostanze non mi rifiuterò di affermare la mia convinzione. Pua, che belle parole, adopera l'amico. È bravo come un banditore. Che vostro figlio Frederick non ha ottenuto alcun anticipo di denaro su lasciti promessi da Mr. Fairstone. Promessi? Chi ha detto che ho mai promesso? Io non prometto niente. Farò dei codicilli finché mi pare. E che, considerata la natura di un tale procedimento, è irragionevole presumere che un giovane di buon senso e di carattere tenterebbe di farlo. Ma il Signore non dice che tu sei un giovane di buon senso e di carattere. Fa bene attenzione, signorino. Per quanto riguarda il mio ruolo in una qualsiasi voce di simile natura, io affermo chiaramente di non aver mai dichiarato in alcun modo che vostro figlio aveva preso a prestito denaro sulla base di qualsiasi proprietà che gli potesse provenire dalla dipartita di Mr. Fairstone. Santo cielo! Proprietà, provenire, dipartita. L'avvocato Standish non vale niente in confronto. Non avrebbe potuto parlare meglio se avesse voluto un prestito. Bene! Mr. Fairstone a questo punto guardò Fred al di sopra degli occhiali, mentre gli ridava la lettera con un gesto di disprezzo. Non supporrei che creda una cosa perché Bulstrode l'afferma con delle belle parole, eh? Fred arrossì. Voi volevate la lettera, signore? Direi che è assai probabile che la smentita di Mr. Bulstrode vale quanto la fonte autorevole che vi ha detto quello che lui smentisce. Proprio così? Non ho mai detto che credevo di più all'uno o all'altro. E adesso cosa ti aspetti? Disse Mr. Fairstone, tenendo gli occhiali, ma ritirando le mani sotto gli scialli. Non mi aspetto niente, signore. Fred si trattenne a stento dall'esprimere la propria irritazione. Sono venuto a portarvi la lettera. Se volete, prenderò congedo da voi. Non ancora, non ancora. Suona il campanello, voglio che la signorinella venga qui. Fu una serva ad apparire in risposta alla scampanellata. Dì alla signorinella di venire, fece Mr. Fairstone con un modo di impazienza. Che motivo aveva di andarsene? Parlò nello stesso tono quando arrivò Mary. Perché non te ne potevi stare qui seduta, buona e tranquilla finché non ti avessi detto di andartene? Adesso voglio il mio panciotto. Ti ho sempre detto di mettermelo sul letto. Gli occhi di Mary apparivano piuttosto arrossati, come se avesse pianto. Era chiaro che quella mattina Mr. Fairstone era in uno dei suoi stati d'animo più bisbetici, e sebbene ora Fred avesse la speranza di ricevere il regalo e il denaro di cui aveva tanto bisogno, avrebbe preferito essere libero di voltarsi verso il vecchio tiranno. E dirgli che Mary Gert era troppo buona a stare a sua disposizione. Sebbene Fred si fosse alzato quando era entrata nella stanza, lei lo aveva notato sì e no, e pareva che i suoi nervi tremassero nell'attesa che le tirassero addosso qualcosa. Ma non aveva nulla di peggio delle parole da temere. Quando andò a staccare il panciotto da un gancio, Fred la raggiunse e le disse: Lascia fare a me. Non toccarlo! Portalo tu, signorinella, e posalo qui. Disse Mr. Fairstone. Ora tu vattene finché non ti chiamo, aggiunse quando il panciotto fu posato accanto a lui. Era consueto per lui dare sapore al piacere di favorire una persona mostrandosi particolarmente sgradevole verso un'altra, e Mary era sempre a tiro per fornire la salsa. Quando venivano i parenti di lui, essa veniva trattata meglio. Lentamente estrasse un mazzo di chiavi dal taschino del panciotto e con la stessa lentezza tirò fuori una scatola di lata da sotto le coperte. Ti aspetti che ti dia una piccola fortuna, eh? Disse guardando al di sopra degli occhiali e fermandosi nel lato di aprire il coperchio. Assolutamente no, signore. Avete avuto la bontà di dirmi che mi avreste fatto un regalo l'altro giorno, altrimenti, com'è naturale, non avrei pensato alla cosa. Ma Fred era pieno di speranze. Gli si era presentata la visione di una somma abbastanza cospicua da liberarlo da una certa preoccupazione. Quando Fred contraeva un debito, gli sembrava sempre assai probabile che sarebbe accaduto un certo qualcosa, non sapeva necessariamente cosa, che gli avrebbe dato la possibilità di pagare entro il tempo stabilito. E ora che l'avvenimento provvidenziale era evidentemente a portata di mano, sarebbe stata una pura e semplice assurdità pensare che l'offerta non sarebbe stata all'altezza del bisogno. Assurda, come una fede che credesse in un mezzo miracolo perché priva della forza di credere in un miracolo intero. Le mani ricoperte di vene manipolarono molte banconote, una dopo l'altra, riponendole ben distese, mentre Fred restava appoggiato allo schienale della poltrona, disdegnando di apparire ansioso. Si considerava un gentiluomo in fondo all'animo e non gli andava di fare la corte a un vecchio per i suoi soldi. Finalmente, Mr. Fairstone lo osservò di nuovo al di sopra degli occhiali e gli offrì un mazzetto di banconote. Fred vide distintamente che erano solo 5, ma non poteva indovinarne il valore dai margini meno rivelatori che si allargavano dalla sua parte. Dopotutto, ciascuna poteva valere 50 sterline. Le prese dicendo: «Vi sono molto obbligato, signore». E stava per arrotondarle senza aver l'aria di pensare al loro valore. Ma Mr. Fairstone, il quale lo stava osservando attentamente, questo non andò a genio. Andiamo, non pensi che valga la pena contarle? Prendi i soldi co come se fossi un lord e suppongo che li perdi allo stesso modo. Pensavo che a caval donato non si guarda in bocca, signore, ma sarò molto lieto di contarle. Fred però non fu felice dopo averle contate. Infatti, si era verificato il caso assurdo che fossero meno di quanto la sua speranza aveva deciso che dovessero essere. Cosa può significare l'adeguatezza delle cose, se non l'essere adeguata alle attese di un uomo? Se questa manca, l'assurdità e l'ateismo si spalancano alle sue spalle. Il colpo fu duro quando Fred si rese conto di tenere in mano non più di 5 banconote da 20 sterline e la sua parte di istruzione superiore, avuta nel proprio paese, non parve essergli di aiuto. Comunque, disse, mentre sul suo bel volto si succedevano rapidi cambiamenti, «è molto generoso da parte vostra, signore». «Lo credo bene», fece Mr. Fairstone, serrando a chiave la scatola e rimettendola dove si trovava, quindi togliendosi deliberatamente gli occhiali e infine, come se una meditazione interiore lo avesse convinto ancora più profondamente, ripetendo: «Direi proprio che è generoso». «Vi assicuro, signore, che vi sono molto grato», disse Fred, che aveva avuto il tempo di riprendere la propria aria allegra. «Dovresti esserlo. Vuoi far figura nel mondo e penso che Peter Fairstone sia l'unico di cui ti debba fidare». A questo punto gli occhi del vecchio ebbero un lampo con uno strano miscuglio di soddisfazione per la consapevolezza che questo brillante giovanotto contava su di lui e che quel giovane brillante era così stupido da farlo. «Sì, davvero, non sono nato con delle opportunità molto splendide. Pochi uomini sono stati più intralciati di me», disse Fred, piuttosto sorpreso della propria virtù, considerato come lo si trattava duramente. «Sembra davvero un peccato dover cavalcare un cavallo da caccia a bolso e vedere uomini che non hanno nemmeno la metà della sua capacità di giudizio buttar via qualsiasi somma di denaro per un cattivo affare. Bene, adesso puoi comprarti un bel cavallo per andare a caccia. 80 sterline bastano per questo, credo, e ti resteranno 20 sterline per cavarti da ogni piccolo guaio», disse Mr. Fairstone, ridacchiando leggermente. «Siete molto buono, signore», disse Fred, intensamente consapevole del contrasto fra le proprie parole e i propri sentimenti. «Già, uno zio assai migliore di quel tuo bel zio Bulstrode. Non ricaverai molto dalle sue speculazioni, penso. Da quello che sento dire, tiene ben stretto tuo padre per le gambe, eh? Mio padre non mi dice mai niente dei suoi affari, signore. Beh, in questo mostra un po' di buonsenso. Ma gli altri li scoprono senza che lui li vada a raccontare. Lui non avrà mai molto da lasciarti. Molto probabilmente morirà senza far testamento. È il tipo capace di farlo. Che lo facciano un sindaco di Middlemarch? Quanto vogliono. Ma non prenderei molto se morirà senza testamento, anche se sei il figlio maggiore». Fred buttò che Mr. Fairstone non era mai stato così antipatico in precedenza. Era vero, ma non gli aveva mai dato prima tanto denaro in una sola volta. «Devo Devo distruggere questa lettera di Mr. Bulstrode, signore? Disse Fred, alzandosi con la lettera come se la volesse gettare nel fuoco. Sì, non la voglio. Non vale un soldo per me. Fred buttò la lettera nel caminetto e con un gran gusto la infilzò con l'attizzatoio. Aveva voglia di uscire dalla stanza, ma provava un po' di vergogna davanti a se stesso, oltre che davanti allo zio, a scappare immediatamente dopo aver intascato i soldi. Quasi subito l'amministratore della fattoria salì per fare un rapporto al padrone e Fred, con suo indicibile sollievo, fu congedato con l'ingiunzione di ritornare presto. Aveva avuto voglia non solo di liberarsi da suo zio, ma anche di trovare Mary Garth. Lei ora si trovava nel suo posto consueto, accanto al fuoco, col cuscino nelle mani e un libro aperto sul caminetto di fianco a lei. Ormai l'arrossamento alle palpebre era un po' scomparso e lei era di nuovo padrona di sé. C'è bisogno di me sopra? Chiese, già in piedi a metà mentre Fred entrava. No, mi ha solo congedato perché Simons è salito. Mary si sedette di nuovo e riprese il proprio lavoro. Lo trattava davvero con maggiore indifferenza del consueto. Non sapeva quanta indignazione, piena d'affetto per lei, egli avesse provato di sopra. Posso fermarmi un po' qui, Mary, o ti annoio? Per favore, siediti, disse Mary. Non mi darai certo fastidio come Mr. John Whale, che è stato qui ieri e si è seduto senza chiedermi il permesso. Poveraccio, penso che sia innamorato di te. Non me ne sono accorta. E per me è una delle cose più odiose nella vita di una ragazza che si debba sempre supporre che ci sia del tenero fra lei e qualsiasi uomo che le mostra gentilezza e al quale essere grata. Avrei creduto che almeno io potessi essere al sicuro da tutto questo. Non ho alcuna ragione per nutrire l'insensata vanità di immaginare che tutti quelli che mi vogliono vicino siano innamorati di me. Mary non voleva tradire ciò che provava, ma a dispetto di sé terminò la frase con un tremulo tono di irritazione. Al diavolo, John Whale, non volevo farti arrabbiare. Non sapevo che avessi alcun motivo per essergli grato. Avevo dimenticato quale grande favore pensi di ricevere se qualcuno ti spegne una candela. Anche Fred aveva il suo orgoglio e non aveva intenzione di dare a vedere che conosceva cosa avesse suscitato questo scatto di Mary. Oh, non sono arrabbiata, tranne per come va il mondo. Mi piace che mi parlino come se avessi del buon senso. Spesso davvero l'impressione che potrei capire un po' di più di quello che sento dire addirittura da dei giovanotti che sono stati all'università. Mary si era ripresa e parlava con un gorgogliante, una gorgogliante vena di riso soffocata e piacevole a udirsi. Non mi importa di fare le spese della tua allegria questa mattina, disse Fred. Ho pensato che avevi un aspetto così triste quando sei salita. È una vergogna che tu debba restare qui per essere maltrattata a quel modo. Oh, io ho una vita facile al confronto. Ho cercato di fare l'insegnante, ma non ci sono tagliata. Alla mia mente piace troppo andarsene per i fatti suoi. Penso che qualsiasi sofferenza sia meglio che fingere di fare quello per cui si è pagati e non farlo mai. Qui posso fare tutto bene come chiunque altro, forse meglio di qualcuno, di Rosie per esempio, anche se è proprio il genere di fanciulla stupenda che è imprigionata con gli orchi nelle favole. Rosie! Esclamò Fred con un tono di profondo scetticismo fraterno. Andiamo, Fred! Disse Mary con energia. Tu non hai alcun diritto di essere così critico. Intendi qualcosa in particolare in questo momento? No, intendo qualcosa in generale, come sempre. Oh! Che sono ozioso e spendaccione. Beh, non sono fatto per essere povero. Non sarei stato un cattivo ragazzo se fossi stato ricco. Avresti fatto il tuo dovere in quella posizione sociale a cui non è piaciuto a Dio di chiamarti, disse Mary ridendo. Beh, non potrei fare il mio dovere nelle vesti di un prete, non più di quanto lo potresti fare tu come istitutrice. In questo caso dovresti avere un po' di comprensione, Mary. Io non ho detto che tu dovresti fare il prete, ci sono altri tipi di lavoro. A me sembra assai deplorevole non decidersi per una professione e agire di conseguenza. Anch'io potrei se. Fred si interruppe e si alzò, appoggiandosi alla mensola del caminetto. Se fossi sicuro di non ereditare una fortuna? Non ho detto questo. Vuoi litigare con me? È davvero un peccato che ti lasci guidare da quello che gli altri dicono di me. Come posso voler litigare con te? Dovrei litigare con tutti i miei nuovi libri, disse Mary sollevando il volume sul tavolo. Per quanto tu possa essere cattivo per gli altri, per me sei buono, perché tu mi piaci più di chiunque altra. Ma so che mi disprezzi. Sì, È vero un po', disse Mary facendo un cenno col capo e sorridendo. Tu ammireresti un tipo stupendo che avesse delle opinioni sagge su tutto. Sì, è vero. Mary cuciva con rapidità e sembrava padrona della situazione in modo provocatorio. Quando una conversazione ha preso una brutta piega per noi, ci impeleghiamo soltanto sempre di più nella goffaggine. Questo era ciò che Fredwin si avvertiva. Suppongo che una donna non si innamori mai di uno che conosce da sempre, fin da quando riesce a ricordare, come invece accade spesso a un uomo. È sempre qualche tipo nuovo che colpisce una ragazza. Vediamo, disse Mary, storcendo maliziosamente gli angoli della bocca. Devo ricorrere alla mia esperienza. C'è Giulietta. Sembra un esempio di quello che dici, ma d'altronde Ofelia conosceva Amleto da tanto tempo. E Brenda Troil conosceva Mordau Merton da quando era bambina. Ma in questo caso sembra che lui fosse un giovanotto stimabile. E Minna era ancora più innamorata di Cleveland, che era un estraneo. Wowerly era una nuova conoscenza per Flora McIvor, ma poi lei non si innamorò di lui. E ci sono Livia e Sofia Primrose e Corinne. Di loro si può dire che si siano innamorate di uomini conosciuti da poco. Tutto sommato, la mia esperienza è piuttosto eterogenea. Mary alzò gli occhi verso Fred con una certa aria birichina e quello sguardo gli era assai caro. Sebbene gli occhi non fossero altro che chiare finestre dalle quali lei lo osservava con aria ridente. Egli era certo un giovane affettuoso ed essendo diventato da ragazzo uomo, si era innamorato della sua compagna di giochi di un tempo, nonostante la sua appartenenza alla classe più istruita del paese avesse esaltato le sue concezioni di rango e di reddito. Quando un uomo non è amato, è inutile che dica che potrebbe essere migliore. Potrebbe essere qualsiasi cosa, voglio dire, se fosse sicuro che il suo amore fosse ricambiato. Assolutamente inutile. Fra tutte le cose di questo mondo che dica che potrebbe essere migliore. Potrebbe darsi, potrebbe, vorrebbe, sono ausiliari spregevoli. Non capisco come uno possa essere buono a qualcosa se non ha una qualche donna che lo ami caramente. Io credo che la bontà dovrebbe venire prima che egli si aspetti questo. Lo sai meglio di me, Mary. Le donne non amano gli uomini per la loro bontà. Forse no. Ma se li amano, non li considerano mai cattivi. Mi sembra proprio ingiusto dire che sono cattivo. Di te non ho detto assolutamente niente. Non sarò mai buona a nulla, Mary, se non mi dirai che mi ami. Non mi prometterai di sposarmi. Voglio dire, quando avrai la possibilità di sposarmi. Se ti amassi non ti sposerei. Certamente non ti permetterei mai di sposarti. Credo che questa sia proprio una cattiveria, Mary. Se mi ami dovresti promettermi di sposarmi. Al contrario. Penso che sarebbe una cattiveria da parte mia sposarti, anche se ti amassi. Vuoi dire così come sono, senza alcun mezzo per mantenere una moglie? Naturale, ho solo 23 anni. Nell'ultima cosa che hai detto cambierai, ma non sono altrettanto certa di altri cambiamenti. Mio padre dice che un ozioso non dovrebbe esistere e ancor meno sposarsi. Allora devo farmi saltare le cervella? No, tutto sommato direi che faresti meglio a superare l'esame. Ho sentito dire da Mr. Fairbrother che è vergognosamente facile. Questo è tutto molto bello, qualsiasi cosa è facile per lui. Non che l'intelligenza c'entri per niente. Io sono 10 volte più intelligente di molti che lo superano. Santo cielo, disse Mary, incapace di soffocare il proprio sarcasmo. Questo spiega perché ci siano dei curati come Mr. Crows. Dividete la vostra intelligenza per 10 e il quoziente, Dio mio, riesce a prendere una laurea. Ma questo dimostra solo che sei 10 volte più pigro degli altri. Bene, se superassi l'esame, non vorresti che diventassi un prete? Questo non è il punto. Quello che io voglio che tu faccia. Tu hai una coscienza, suppongo. Ecco, c'è Mr. Lydgate. Devo andare a dirlo allo zio. Mary, disse Fred, afferrandole la mano mentre essa si alzava, se non mi darai un po' di incoraggiamento, peggiorerò invece di migliorare. Non voglio darti alcun incoraggiamento, disse Mary, arrossendo. Ai tuoi non piacerebbe, neppure ai miei. Mio padre la considererebbe un'ignominia per me se accettassi un uomo che fa dei debiti e non vuole lavorare. Fred si sentì offeso e le lasciò la mano. Essa andò fino alla porta, ma qui si voltò e disse: Fred, sei sempre stato così buono, così generoso con me. Io non sono ingrata. Per Ma non parlarmi più in quel modo. Molto bene, disse Freddy, imbronciato, raccogliendo cappello e frustino. Sul viso gli erano comparse delle chiastre di un rosa pallido e di un bianco cadaverico. Come molti signorini oziosi e bocciati, era innamorato cotto e di una ragazza bruttina che non aveva soldi. Ma con la prospettiva della terra di Mr. Fairstone e la convinzione che dicesse pure quello che voleva, Mary gli voleva davvero bene. Fred non era completamente disperato. Quando giunse a casa, diede 4 delle monete da 20 sterline alla madre, chiedendole di tenergliele. Non voglio spendere quei soldi, mamma, ne ho bisogno per pagarci un debito. Così teneteli al sicuro dalle mie mani. Che Dio ti benedica, mio caro, disse Mrs. Vincy. Stravedeva per il figlio maggiore e la femmina più piccola, una bambina di 6 anni, che gli altri consideravano i figli più pestiferi. Gli occhi di una madre, pur con le loro preferenze, non sempre si ingannano. Essa almeno può giudicare nel modo migliore chi è il figliuolo più dolce e affettuoso, e Fred voleva certamente un bene da morire a sua madre. Forse era anche il suo amore per un'altra persona a renderlo particolarmente desideroso di prendere una qualche misura contro la sua tendenza a spendere le 100 sterline. Infatti, il creditore a cui doveva 160 sterline aveva una garanzia più salda sotto forma di una cambiale firmata dal padre di Mary.